fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta del sabato sera in compagnia delle amiche che vengono da... Ah, una da Venezia si distingue. Mi piace che si distingue. Allora, ragazze, vi presentate al microfono una per una? Valentina. Silvia. Dovresti metterlo. Ecco. Di nuovo Silvia. Alice. Stefania la sposa. Stefania la sposa, ragazze. Allora, Stefania la sposa ci ha già omaggiato di un'intervista incredibile all'inizio, quindi lei ha già dato proprio alla grande, ecco. Purtroppo per quei pochi che non l'hanno sentita, andate a sentirla perché ha qualcosa dell'incredibile. Cioè, succedono cose strane. Ah sì, è vero, per un altro libro, né? Sì, di quei libri strani, giusto? O anche un film, è vero? Allora, ragazze, ditemi voi che la conoscete da tempo qualcosa che ha dell'incredibile ancora su di lei. Ci sono delle storie inenarrabili che si possono narrare. Ma dalla nascita, volendo anche. Ah, c'è proprio tutto... Io sono la sorella, quindi penso che... Dai, ce l'hai un aneddoto? Un aneddoto della Stefania, sì, certo. La che si può dire, eh? Che si può dire? Si può dire. Ah, certo, allora, certo. Sì, non puoi negare. È preoccupatissima. La modalità con cui la Steffi andava in bagno. La modalità. Si andava a nascondere. Aiuto. Quando aveva uno o due anni dietro la porta. Sì. Si accucciava e stava lì finché non aveva finito. Veramente? Per una particolarità della Stefania. Eri al corrente di questa cosa, Stefania? In realtà penso che fosse lei, mia sorella, a far così. Attenzione, ecco, mi piace questa cosa che vi lanciate la palla. Ah, sei la sorella aneddoto? Voi ne avete amiche di aneddoti? Ah, ce l'hai? Oh, vai, spara, spara. Attenzione che qua è proprio la tua serata, eh. Aie, solo famosa serata in cui dopo aver bevuto un bel po' di mojito. Strano. Si è gettata verso il mare ed è quasi inciampata sulla corda, sulla corda. Te lo ricordo, non se lo ricorda, eh. Anche, no, anche questo. E quindi è caduta in terra proprio. No, si è salvata, dai. Si è salvata in extremis. Intanto la cosa bella è che quella, l'amica Ricciola, sta, è tesissima perché sta pensando a cosa raccontare. Cioè, adesso me lo chiedo a me, adesso me lo chiedo tipo a scuola, no? Giusto? C'era l'effetto scolastico? Ti salto, hai visto? Che botta di... Tu invece eri bella rilassata, e tanto tocca a lei. Io sono una bomba. Ah, tu hai il segreto, lei ha il segreto bancario, questa ragazza. Lavori in banca? No, però ha il segreto lo stesso. Te, Ricciolina, non ti ricordi niente? Ma è vostra amica? L'avete trovata in sala parto su a 2000 metri? No? Ma i nomi ve li ho chiesti? Li avete detti? Ah, li abbiamo già detti? Sì, visto che a memoria che ho già passato. Sono già passati 2 minuti, eh? Che storia. Dove vai in viaggio di nozze? Allora, dopo il matrimonio facciamo un giro dalla Toscana per mostrare all'austriaco le nostre bellezze italiane. Sono sempre preoccupato quando gli faccio una domanda perché si avvicina sempre con quel modo tipo, sì, eh? E dopo tira fuori qualcosa di assurdo. No, infatti... La bomba finale. Sì, la bomba finale, incredibile. Invece per ora è andata liscia, nel senso... Si vede che l'effetto alcol sta lentamente scendendo, quindi ti sei... È più sobria, confermi? Beh, aiuto, ma vai, ma sempre così, avete visto? L'avete vista? Non è in grado di confermare. Non è in grado. Ma ricordiamo cosa avete fatto oggi, cosa le avete combinato? Qualche... Abbiamo fatto un giro a Desenzano con delle penitenze che doveva seguire, sì. E abbiamo conosciuto tanta gente in centro e ecco, abbiamo raccimolato una discreta somma di denaro. Una discreta somma, quindi vi lamentate, potevano essere più generosi? No, no. Abbiamo intenzione di aprire un business di annubilato falsi. Dici, come lavoro facciamo questo, andiamo in giro? Potrebbe essere. Molto redditizia? Ah sì, fantastico, cioè mi sembra tutto contento di questo. Beh, lo fate a turno, ecco, in giro. Cambiamo piazza. Cambiate piazza, a turno. Cambiamo lavoro. Ognuna con una storia fantascientifica, però, cioè, ognuna deve inventarsi proprio. Io credo che quella di prima non si batte. No, è impossibile da battere, veramente. E comunque è commossa, è lì. Non vado più a partorire in sala parto. Andrà in giro per Desenzano, lo farà nelle piazze adesso, perché giustamente è più redditizio. Visto che abbiamo trovato questo business, facciamo addio nubilato con sala parto anche, compresa, che ci sta, è bello. Stasera vi siete divertite al convento? Sì, sì, molto, molto. Avete ballato, mangiato? È un posto che si presta bene, sì, tipo sì. Di personaggi come la vostra amica? Personaggi. Cioè, riceve persone... con queste caratteristiche... Perché lo slogan è: se non sono matti non li vogliamo al convento. E quindi oggi c'erano notevoli, c'erano, sì, notevoli personaggi. A me è piaciuto particolarmente il ciclista. Non so perché, a me il ciclista ha colpito. Ti ha colpito per... Cos'è? Forse perché il suo futuro sposo è anche ciclista, sì, e quindi me lo immagino anche lui poveretto conciato in questo modo. Ma credo che la bici non la porta di certo. No. Dice, perché abbiamo intervistato il ciclista, e sai che di solito davanti hanno, cioè, i preghini, no? Che fanno un certo rigonfiamento. Invece lui non aveva nessun rigonfiamento e ha detto che l'attrezzatura sessuale ha dovuto lasciarla a casa perché la moglie era gelosa. Quindi puoi consigliarlo al tuo futuro. Gli era sequestrato la infatti c'era calma piatta davanti, ma questa è un'altra storia, ecco. Comunque, ecco, puoi consigliarlo. Qualcun altro che si sposa? No, nessuna? Sposata lei, ma tra un po'. No, bisogna vedere, perché aspetta, che adesso che ha visto che c'è il business si può sposare rapidamente. Ah. Oh ragazzi, questa intervista è andata meglio di quella iniziale. Sembra di parlare. Mamma mia, cosa faccio? Cioè, disastro. Sembra di parlare in maniera rilassata, bellissimo, una cosa incredibile. Forse perché non vediamo la telecamera, quindi non la vediamo proprio davanti. E quindi vi mette meno soggezione, però siete super monitorate anche qua, vedete? Se non ce lo ricordi, magari. Forse è meglio. Nel frattempo la ricerca. Possiamo fare un saluto allo sposo, magari in tedesco? Sarà bello. Lo conosci il tedesco? Ma facciamo anche prima la canzoncina, quella del Brindisi che dicevo a Improse? La facciamo? Ma tu la sai, parole? Ah, non la fa? No, non la sai? Ah. Niente, allora facciamoli solo la dedica, dai, che l'ho vista. Oh, no, ho paura che. Ok, ragazze, vai col tedesco. Che fate? No, in tedesco, Allora. Hanno detto loro, non c'entro, guarda male me. Vom greco, mein zukünftige Brötchen. C'è un panino? Gute Arbeit, weil ist in der Arbeit und ich habe viel Spaß da und ma che dedica è? Buon lavoro. Faccio la pasta col pesce. Ma che dedica è? Buon lavoro. Ma scusa, io ho capito, buon lavoro, faccio la pasta col pesce. No. No. Buon lavoro, mi sto divertendo molto. E la pasta col pesce? No, non c'era. Nuda mit Fisch. E spaghetti col pesce. Ma che dedica fa questa? Lo sapevo che c'era qualcosa di strano nella mente di questa ragazza ancora. Va bene. Era troppo bello, mi ci ascolta, tu si andava liscia, ma invece ci ha messo del suo anche stavolta. Perché lui si è innamorato della sua pasta col tonno. Ah, è innamorato della pasta col tonno. Ah, adesso è tutto più chiaro. Questo in alta quota sempre. Va bene, questo sarebbe stato bello fare una puntata di Quark durante il loro innamoramento. Ecco, così si capiva tutte queste cose strane che succedono. Va bene ragazzi, è stato bello, eh? Grazie. Bellissimo, è stato bello conoscervi. Altrettanto, eh? Ok, salutiamo tutti, anche ciao, se non ci vedono. Ciao a tutti. Grazie per averci ascoltato. Grazie. Le nostre cazzate.